Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Alegria voltou tão feliz amanhã desse amor. E buonasera e bentornati a Ethno Chic. Ciao Azul. Ciao, buonasera. Sempre Radio Città del Capo 94.7 96.250, il numero per mandarci dei messaggi se volete è 348 76 49 289. E potete anche ascoltarci in stream su www.radiocittadelcapo.it. E come vi avevamo preannunciato su Facebook, perché ricordatevi abbiamo anche una pagina Facebook, stasera parliamo di carnevale, tempo di carnevale, e come avete sentito partiamo proprio dal Brasile. Antonio Carlos Jobim con Manhã de Carnaval, tratto da un film, mi ha detto anche, mi sì, un film che è Feu Negro del 1959, una coproduzione italo-franco e, insomma, di vari paesi internazionali, un film di Marcel Camus del 59, che ha un po' anche sancito un po' l'inizio del successo sia della bossa nova che del carnevale a livello internazionale, il carnevale brasiliano, perché è un film che ambienta la vicenda della mitologia greca di Orfeo Euridice durante appunto il carnevale di Rio. È il carnevale inteso come lo conosciamo ora, perché esatto. Il carnevale in Brasile è iniziato tanto tanto tempo fa, in una moda, una maniera molto diversa, molto particolare in relazione a quello che è ora. Sì, inizialmente era questo che si chiamava intrudo, no? Che veniva ripreso un po' dagli schiavi, giusto? Corredo, sì, sì, dagli schiavi che allora nelle strade questi schiavi appunto lanciavano della farina e delle palline d'acqua per fare gli scherzi. E infatti poi era ben poco tollerato e quindi poi hanno preso anche dei provvedimenti. Non abbiamo, è una tradizione che veniva dall'Europa e che ha trovato una sua nuova forma in quel posto. E noi vi facciamo sentire qualcosa che c'entra solo col titolo, una canzone di Alice Regina, senza, per rimanere nel tema. Desce a estrada de rainha, no passo do rancho corre o manto, no medo e no espanto morre minha alegria. Vem, ó fantasia, arrasta a saia, rasga o dia, meu passo a compasso na avenida. Teu riso que dança, trança, triste e sofrido. Se meu abandono em cinzas frias amanhece, mas o sangue não se cansa, não se esquece de chamar. E eu abro alas, jogo lanças, serpentinas de cores feitas, e rompo estandartes na avenida em dor, sem céu, sem luz, sem sol, sem cor. Mas vem ou tudo ou nada, meu intruso, espera, meus campos de guerra, bem amada de tanto que eu chamo, canto, peço e preciso. Questo era Intrudo di Elis Regina, che più o meno parla di questa moda, come era, per una forma più dolce, parla più delle principesse, delle regine dell'ora, come vivevano. Sì, invece noi adesso andiamo a parlare giusto di queste marchinas, che un po' sono la caratteristica, sì, storica del carnevale. È il carnevale. Sì, sì, è quello che rappresenta un po' il carnevale, e dicevo prima che alla fine io sono cresciuta con le marchinesi, più o meno i nomi di ognuna non li conosco, conosco le lettere ma non conosco le musiche, perché sentiamo da bambini, non facciamo caso. Cioè. Ecco. E Mariano, come racconteresti cosa sono queste marchinesi? Queste marchinesi all'inizio erano le musiche per che rappresentava il carnevale, chi portava questi gruppi di carnevale, di scuole, di samba, non come la conosciamo ora, ma allora, come era fatta, tutto, che era una musica di tema di questa scuola, chiamiamola così, scuola di samba, chiamiamola così, ma non era così chiamata allora. E era molto, appunto, di vista molto politico oppure anche scherzoso, perché no, perché è sempre un periodo di festa, di socializzazione, ma anche un motivo di protesta ai carnevali, sì, tutt'oggi volendo. Sì, sì, certo, era un modo comunque di commentare quello che succedeva, sì, attraverso... Sì. Di commentare quello, ma anche di giocare. Ci sono tante musiche che, vedendo ora con i miei occhi da grande, che sono un po' scherzose, anche un po'... anche offensive, se vogliamo vedere un punto di vista molto, certo, molto umano, però allora era una forma di dire, di giocare, ripeto. E partiamo subito con un esempio piuttosto indietro nel tempo. Questa era O Abre Alas, la versione un po' strumentale di Banda da Casa Edison del 1911, però questa musica è di Chiquinha Gonzaga, che è una delle prime creatrici, innovatrici della musica di carnevale, e questa musica è stata fatta nel lontano 1899, quindi si può sentire anche un tipo di musica molto strumentale, perché anche nella versione cantata da lei il ritmo è quello, le battute sono quelle, sì, da marcia, ecco, esce da banda, sì, proprio, sì, perché sì. Comunque siamo in una epoca dell'Ottocento, fine Ottocento, inizio Novecento, che è ancora molto, come si dice, con le... Sì, proprio diciamo il periodo in cui poi le bande vengono fuori, come... Insomma, l'importanza delle bande poi che poi continua fino a oggi, insomma. Sì. Però è in quel periodo che, insomma, le bande hanno il loro maggiore sviluppo. Sì. bem morena, que teu olhar tem corrente de luz que faz cegar. O povo anda dizendo que essa luz do teu olhar a light vai mandar cortar. É moreninha, é tentação. Não andes assim tão sozinha, que uma andorinha não faz verão. É moreninha, é tentação. Meu amor, deixa de medo, o amor é uma espécie de brinquedo. Se acaso terminar o nosso sonho à luz do dia, eu rasgo a minha fantasia. Ecco questa rondine che non fa estate, che da noi si direbbe primavera, era una marcigna, pare del 1933, ne sentiremo altre che vanno in ordine cronologico. E ripeto, qui si sente anche questa battita molto militare che volevo dire prima, perché come dicevamo erano delle musiche che portavano un corteo, anche se è una festa, comunque era un corteo che seguiva dietro, quindi doveva dare la battuta giusta, il ritmo giusto per le ballerine, oppure per le sfilata, che poi in futuro si è trasformata nelle scuole di samba come conosciamo ora. Sì, che poi come conosciamo ora si è sviluppato molto, poi dicevamo appunto dagli anni 60 in poi, e leggevo appunto il famoso Sambodromo di Rio de Janeiro, stato costruito nell'84 da, no, Oscar Niemeyer, che poi è l'architetto anche di Brasilia, no? Sì, sì, sì. Il creatore di Brasilia. Voi jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho, mais bonita que a canela que morreu. muito mais bonita que a camélia que morreu. Pois a mineira por que estás tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Questa era Jardinera del 1939, un'altra marcigna. E adesso sentiremo un esempio di frevo. Cosa sarebbe il frevo? Frevo è una musica che nasce in Pernambuco. È una regione del Brasile. Sì, è una regione del Brasile, sì. È un ritmo un po' più frenetico, più vivo, anche se questa versione non è proprio così, però è un ritmo più... che venga dai fervor, dai bollire, frevo, viene da questo bollire proprio, che è un movimento, sì. È un ritmo molto forte, accelerato, che insieme alla coreografia, alla danza, fa lo spettacolo, perché è una musica molto bella, però la coreografia vista, vi invito a cercare su YouTube, che si trova delle cose spettacolari, sono dei movimenti coi piedi e con questo ombrellino particolare che fa questo spettacolo insieme a questa musica, e viene anche, è un misto di tante tipologie di musiche, e anche in un periodo particolare sempre di Brasile, e è nato questo ritmo, questa velocità. Andiamo a sentire questa versione della banda dei Pifanos da Canoaru. Questa banda di piferi che faceva questa musica del frevo, Levanta Poeira, e poi a un certo punto c'è stata un po' la svolta elettrica, anche questa musica, sì. Col trio elettrico, giusto? C'è stata la svolta elettrica, nel senso che prima queste marcigne che facevano parte dei gruppi di scuola di samba, quello che allora chiamiamo così, ma non era questo, e infatti sentite nella marcigna c'è 4-5 strofe e poi si ripete a lungo, giusto perché la gente si ricorda e va E la stessa cosa succede nelle scuole di samba ora, che hanno cominciato a fare delle musiche, loro stessi fanno una gara ogni anno per scegliere la musica tema delle scuole, perché sono diverse scuole di samba a San Paolo e a Rio de Janeiro, quelle più famose sono diverse, ci sono, se non mi sbaglio, circa 10 a ogni città, non me lo ricordo sinceramente i numeri, e fanno queste gare per scegliere la musica tema dell'anno, e ogni anno è una musica diversa, un omaggio a un personaggio famoso, a una città, a una situazione storica del momento. E il trio elettrico è venuto con questo evolvere della tecnologia in sé, perché prima c'era la banda che seguiva, che suonava, infatti il ritmo. Come abbiamo sentito bravo. E ora c'è magari un complesso, una banda proprio che suona con la chitarra, con la batteria, su un carro e i cantanti, oppure una musica elettrica. Però quel cantante dietro che canta si può sentire ancora insieme, si può vedere ancora magari i tamburo che dà il ritmo, qualcosa, ma è una cosa un po' più evoluta. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia, no meio-dia. Quero morrer já, o som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia, no meio-dia. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia, no meio-dia. E questo era niente di meno che Caetano Veloso con questo Atrás do trio elettrico a Bahia. Allora, solo una parentesi veloce, il trio elettrico è più quelli per le strade, per le feste delle strade della gente. C'è il gruppo che va, i cantanti sopra, che passa tutta la strada con i folion, come chiamiamo noi, quelli sono i ragazzi che ballano, che siamo tutti noi nel gruppo e balliamo. Mentre la scuola di samba è quella che andiamo a vedere pagando il biglietto dentro a Sambódromo di Rio de Janeiro o di São Paulo. Una parentesi molto così. E niente, ci sarebbe ancora molto da parlare. Noi infatti questa puntata ci concentreremo proprio sul Centro America e Sud America, e in realtà poi il Centro America, giusto, c'è una piccola parentesi con un paio di esempi che vengono dalle dalle isole dei Caraibi e su cui si potrebbe anche qui stare molto tempo. Il primo esempio è proprio da questo disco Calypso Awakening da Trinidad, di questo musicista che ci suona questo brano di carnevale. Il suo nome era Theophilus Woods. While I'm waiting for this carnival, it's to jump up with these criminals. I'm going to arm myself with a big stick. Any man in tongue I meet that is relics. Cause I don't tell mommy already. Mommy, do tie up your belly. Cause it's murder federation with war and rebellion when they bomb me by the junction. A gun down, Massive Bay, Massive Bay. Meet me down by the Quasi and cut out. Meet me down by Green Corner. Monday morning, I wake in early to drink a vat to steam up my body. And I jumping up like a crazy. I alone gone collapse the city. With me razor tie onto me pui. I like a pigeon in the 18th century. And with me stick in my waist, a chipping in space is to spit in old nigga face. And I gone down. Massive Bay. Meet me down by the crazy. Cut out down. Meet me down by the corner. Well, to show you I in for trouble, on me right hand is me steel knuckle. Me chuka in me left pocket. Boys, me pour ya under me jacket. And I jump in up like if a while. I know they're bound to say that is old style. But they could beat me like a child. I take a licks with a smile. And I pelt in for like a while. And Massive Bay, Massive Bay. Meet me down by the crazy. And cut out. Meet me down by the corner. Well, as man, I consult me doctor to check me lungs and me liver. I don't pay off my lawyer, so he could pay off my undertaker. And as I have no mother nor father, they could post me back to Grenada. Cause I tell Mr. Chance, I don't pay in advance to bury me down in Granada. Let it come with them. Massive Bay, Massive Bay. Meet me down by the crazy. And cut out down. Meet me down by the corner. Massive Bay. Meet me down by the crazy. And cut out down. Meet me down by the corner. E qui eravamo proprio nei pieni Caraibi, sembra quasi una pronuncia un po' giamaicana con l'inglese misto alle lingue locali. E prossimo brano, siamo ad Haiti, è sempre musica del carnevale e appunto ci sentiremo delle voci maschili accompagnati dalla marimba. Pole, E questi erano appunto due piccoli esempi proprio per documentare la ricchezza, insomma, della musica del carnevale anche in tutta l'America Latina, tradizioni musicali che arrivano dall'Europa ma che poi si mescolano con le musiche dei nativi, che molto spesso riescono anche a mantenere e preservare molto forti i caratteri delle loro musiche anche mescolandosi con elementi europei. Infatti qui si sentiva molto un battito indigeno della terra, sì, proprio. La stessa marimba è uno strumento, sì, proprio tipico proprio del Centro America, di quelle zone. E andando in Perù, questo discorso è comunque nella zona andina ancora più forte, perché in questa zona le popolazioni sono riuscite a legare al carnevale molte di quelle musiche che ancora derivano addirittura alcune danze dalla tradizione degli Inca. Sono zone impervie dove sono riusciti a resistere anche alla penetrazione dei conquistadori spagnoli, hanno mantenuto le proprie tradizioni, però prendendo alcuni elementi dalla tradizione appunto continentale dell'Europa, anche alcuni strumenti. E adesso appunto vi facciamo sentire di seguito due esempi dalle numerose registrazioni che l'etichetta Smithsonian Folkways, che è molto attenta appunto alle tradizioni, alla ricerca sul campo, ha pubblicato in vari dischi dagli anni 50 a oggi. E qui siamo appunto sulle Ande, siamo in Perù. Se non mi caso e innamora, io mi caserei, matara, io mi caserei, matara. Se non mi caso e innamora, io mi caserei, matara, io mi caserei, matara. Que si me casé, yo seco, toda mi paisana llora, toda mi paisana llora. Chili, E qui siamo, e qui siamo, appunto, siamo arrivati sempre nella zona andina. Zona andina, appunto, che fa parte del, è una zona che è compresa da vari paesi, insomma, Cile, Bolivia, Perù e Argentina. E Argentina è la zona dove, appunto, vi faremo sentire due esempi piuttosto, piuttosto interessanti di due cose differenti. Il primo sono degli huayno, che praticamente gli huayno sono delle danze collettive di gruppo che risalgono ancora al periodo incaico degli Incas, e che si sono mantenute, soprattutto hanno mantenuto il loro carattere ritmico piuttosto marcato, di ritmo binario, e sono caratteristiche, appunto, di questa zona al confine con la Bolivia, nord-est dell'Argentina, nelle province di Salta e Jujuy, dove questo importante etnomusicologo Enrique Cámara de Landa nel 1989 ha fatto queste registrazioni. Fra l'altro una persona molto, che ho avuto l'onore di conoscere, perché è proprio una bella persona, molto alla mano, insomma, nonostante che forse sia uno dei più importanti etnomusicologi viventi. E appunto andiamo a sentire prima di tutto questi huayno. E questi, appunto, erano degli huayno, e da queste danze collettive alle danze di coppia. Danze di coppia che sono invece danze, appunto, europee. Sono, sentiremo una sequenza di queste danze de pareca, che vuol dire, appunto, danza di coppia. Una zamba, una cueca, bailecito e chacarera, che sono... Anche ritmo! Sono il sviluppo di queste vecchie danze rinascimentali, corrente gagliarda, che sono arrivate, appunto, con i colonizzatori in Argentina, e adesso andiamo a sentire. E sono queste danze che vengono eseguite anche loro nel carnevale. Thank you. E da Umahuaca, dalla provincia di Jujuy dell'Argentina, noi vi stiamo per salutare. Diciamo che nel carnevale ci sono veramente tante cose da fare, probabilmente l'anno prossimo ci organizzeremo faremo meglio. Tutto il mese proprio dedicato a tutte le tradizioni. Sì, perché parla di carnevale, uno immagina sempre il Brasile, ma il carnevale è una cosa che si festeggia in tutto il mondo di forme diverse, come abbiamo potuto sentire in queste musiche, dei ritmi diversi, delle sensazioni, delle emozioni diverse, non solo la festa come vista, come ridere e giocare, ma anche una cosa molto profonda che puoi prendere una tradizione, come sentivamo i Quechua prima in Perù, nelle Ande e ora in Argentina, con questi ritmi di musica che si può fare una festa molto più al chiuso, con più tranquilla, più serena, ma sempre festeggiando, sempre con l'emozione. Sì, e poi c'è tutto un discorso che non abbiamo affrontato e che sarà il tema di appunto altre puntate, che è il legame tra del carnevale e le ritualità e significati nascosti dietro a queste cose. E per esempio potevamo lasciarvi senza un piccolo esempio dalla tradizione musicale del carnevale ancora vivi del nostro paese, con una tradizione, quella della Radeca di Frosinone, non così conosciuta come magari altri carnevali a livello tradizionale, come quello della Val di Resia, piuttosto che quello dei carnevali del Trentino. Praticamente questa Radeca, di cui sentiremo una canzone del carnevale registrata nel 2006, questa banda concertistica romagnola è registrata dai ricercatori Emiliano Migliorini e Salvatore Rossano, è una rievocazione di una cacciata delle truppe francesi del XVIII secolo guidate da un generale. Questo generale francese ha anche rappresentato una specie di pupazzo con dei baffoni, eccetera, eccetera. Alla fine c'è un processo e poi c'è il rogo, chiaramente il pupazzo. E infatti la Radeca non è nient'altro che una foglia d'agave che i partecipanti a questo corteo del carnevale tengono in mano a mo' di spada. E quindi i significati, insomma, di questa rievocazione storica, di questa cacciata comunque di questo dominatore, cose che si trovano anche in altre parti d'Italia. E con questo ascolto vi salutiamo, Vladimiro Azul, buona serata e divertitevi di carnevale, moderazione. Buon carnevale.